Nuovo in diretta è un cognome che ritorna. Lui è un pianista hard bop per la Blue Note Records, Duke Jordan, in questo brano ripreso da Flight to Jordan che stiamo ascoltando e ci farà da base e da colonna sonora per un'altra voce al ricchissimo multigroove di oggi, insieme a Marco Santucci qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno e grazie, Marco. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, intanto presentiamo Marco, è stato atleta per Bologna nella pallacanestro degli anni 70, ha sfiorato anche la parte successiva e poi ha avuto un seguito come allenatore, atleta importante, grandi caratteristiche fisiche, un numero 3, un esterno mancino e insieme a lui una coppia di americani veramente importanti, Charles Jordan e Marcellus Starks. Ieri così, scorrendo alcuni social, già ovviamente a conoscenza delle difficoltà che sta vivendo il grande Charles Jordan, ho visto un'iniziativa che subito ha attirato la mia attenzione. Intanto complimenti per la tua sensibilità e umanità nello star vicino a questo grande campione, e la prima cosa che ti chiedo è: come sta Charles Jordan? Beh, insomma, se la cava non bene, perché è in una casa di cura, di riposo, chiamiamola così, per ex atleti professionisti americani, pallacanestro, ex giocatori della ABA, sì, dove per fortuna in America ci sono queste strutture che li aiutano, perché molti di loro sono in difficoltà economiche, lui è anche in difficoltà fisiche perché ha avuto più di un ictus purtroppo e quindi ha bisogno di una continua assistenza, e così noi qui da dall'oceano, grazie all'iniziativa anche di questi tifosi del Fortitudino e di tanti altri amici che in giro del mondo hanno dato una mano, l'abbiamo aiutato in passato, e questa nuova iniziativa l'ho sposata al volo perché è sicuramente molto giusta, molto certo, bella. È una bella attenzione che tra l'altro porta anche in concreto un ricordo. Ho visto l'immagine di Jordan ai tempi latte sole con tanto di canotta e sì. Poi entrare nel dettaglio di come è stato rappresentato, perché è molto curioso questo aspetto. Non ho capito bene. Come è rappresentato? Beh, è perché c'è questa immaginetta che sembra una figurina, ma una figurina non è. Ci può dire qualcosa? Beh, diciamo che allora questo bisogna chiederlo meglio agli amici del Fortitudino. L'iniziativa è la loro, io l'ho semplicemente appoggiata, condivisa, perché mi è piaciuta subito. Da quello che ho capito è un'immagine, è una struttura in Lego, sì. Si chiama Lego World Charles Jordan 11 in confezione trasparente, che è un qualche cosa di diverso rispetto alla come si chiama, calamita, esatto, che avevamo fatto l'altra volta, sempre per poter dare qualche cosa che era stata fatta l'altra volta sempre dagli amici del Fortitudino per poter raccogliere dei fondi, e ne sono stati raccolti tanti e questa volta speriamo che vengano raccolti anche. Certo, ti ho perso un attimo, spero di recuperarti, sì. E intanto ne sì. do spiegazione anch'io. È sì. un'immagine in Lego con sì. i mattoncini della Lego di Charles sì. Jordan con la divisa, ovviamente il numero 11, latte sole. Chiaro. La possibilità di averla con questi appassionati, il Fortitudino, che si possono contattare facilmente, è motivo di sottoscrizione e oltretutto sì. anche per un bel ricordo, mi permetto di dire. Assolutamente. La grande stella ha fatto 2 anni nella ABA ad Indiana, arriva in Europa esattamente in Francia e poi Fortitudo sì. vicino a Marcellus Starks, grande rimbalzista, giocatore dominante sotto le planche, e lui genio e sregolatezza, è stato sì. una delle mie prime stelle che portavo nel cuore, in quanto a me sono sempre piaciuti i lunghi con buona mano e coraggio per tirare da fuori, e Charles Jordan lo faceva nelle condizioni più disparate, più sì. inimmaginabili. Che giocatore avere al fianco! Tu sei stato più volte anche in quintetto base con Charles Jordan, e ci puoi dire qualcosa di più? Ovviamente ti devo fare questa domanda, Marco. Certo, certo. Eh no, è un giocatore moderno, direi, per sì. quello che era di fine degli anni 70, un giocatore assolutamente genio di regolatezza, in grado di segnare 50 punti senza il tiro da tre punti, allora non c'era ancora, un giocatore 2 metri e rotti che tirava da lontanissimo, tante volte andava a dare dopo il tiro realizzato il 5 a chi era in platea, a chi era a bordo campo in parterre, quindi era un giocatore che sicuramente paragonato ai giorni d'oggi sarebbe stato un giocatore per più ruoli, sì, un giocatore del futuro, perché allora non c'erano giocatori di quel tipo, quindi così alti che tiravano da tre punti, che potevano giocare in più ruoli, forse non un grandissimo difensore, ma un attaccante di quelli superlativi. Innati e naturali, superlativi. Sì, naturali, poteva giocare secondo me in tre ruoli, dal 2 al 4, ma all'occorrenza lo potevi mettere spalle a canestro, che certo, si faceva valere lo stesso. Con Marcello sono stati una coppia straordinaria, hanno tirato su una covata di ragazzini come eravamo noi, prima vincendo la 2, poi facendo due campionati di alto livello in A1, e quindi in una fortitudo di altri tempi che probabilmente oggi sta tornando. Sì, infatti in bocca al lupo chiaramente dopo tutti questi risultati positivi. E caratterialmente Pasto allo stesso modo? Sì, assolutamente, fuori dal campo difficilissimo, diciamo, nel senso che giovane, perché poi aveva 25 anni se non erro allora, e quindi assolutamente non di quegli atleti inquadrati in come erano invece tutto al contrario Marcello, che era a casa e palestra. Lui era un giocatore anche al di fuori, nello stesso modo, ecco, portava in campo il suo carattere estroverso che aveva anche all'esterno, e questo, e quindi rappresentava... questo sì, è stato per lui probabilmente anche un limite per certi aspetti, perché la carriera degli atleti è breve, e se non è curata anche all'esterno diventa difficile poter mantenere sempre le prestazioni di quel livello, però ti fanno a raggiungere, toccare delle punte di eccellenza come fu nella partita con Pesaro o in tante altre che solo lui poteva raggiungere, ecco. Poi dopo ovviamente aveva dei bassi dettati anche da un po' di regolatezza nella vita di tutti i giorni. Sì, certe volte, come diceva Dan Peterson, attenzione, non fidatevi di lui, perché è capace di tirare esatto, da 10 metri ricevendo sicuro con la palla e una sospensione che parte con il volto riverso all'altro canestro, quindi si certo, girava in tiro e concludeva con un 360 sì, sì, gradi verso il canestro avversario che non ti aspetti, insomma, il problema no, è che la no, metteva, ecco, quindi era... Assolutamente. Diciamo che determinate conclusioni erano concesse a Jordan, ecco, proprio. Ma per... sì, assolutamente, lui andava al di là degli schemi, delle regole di gioco e via dicendo, lui aveva l'estro, aveva la fantasia, aveva questo suo talento innato e su quello basava tutto. Certo, puoi rimanere un minuto in certo, collegamento certo, con noi, mettiamo un po' di certo, musica, volentieri, poi ritorniamo in diretta con Marco Santucci, parleremo anche di te, non credere, sei... No. lo so che sei introverso, giustamente, un pochettino, ma avremo modo poi. Okay. E intanto che stacchiamo con un po' di note, ricordiamo presso il Fortitudino e altre piattaforme di appassionati per Fortitudo Pallacanestro, Anni d'Oro, Latte Sole, Marcellus Starks, Charles Jordan, ricordo Andrea Dalpian, ricordo sì, ovviamente tanti altri atleti attorno a queste due grandi stelle. Ora Charles Jordan è in difficoltà e quindi bisogna un po' avere attenzione anche per tutto quello che ha dato alla nostra città e non solo, alla passione per la pallacanestro. La possibilità c'è e abbiamo anche motivo di ricordo e avere questa immagine, questa piccola la riproduzione in mattoncini Lego di Charles Jordan con Canotta, Latte e Sole. A tra poco. record per più punti segnati in una partita da un giocatore della Fortitudo, 50, bel cinquantello tondo tondo, intaccato di poco da quasi ormai un altro ventennio fa dal grande Alexander Georges, che si fermò a quota 48. Anche dall'enciclopedico Paolo Onofri abbiamo avuto conferma statistica di questi record, di questi grandi percorsi di realizzazione. Ci sei, Marco? Sento che ci sono. Ci sei, ok. Come stai tu? Come procede la tua carriera extra cestistica o ancora cestistica? No, cestistica dopo il femminile, che dopo gli anni del femminile ho seguito le figlie, abbiamo fatto un po' di pallacanestro a Castel San Pietro, dopo gli anni di Castelmaggiore, ovviamente, che è stata l'ultima esperienza. Vero. Castelmaggiore come dirigente, dopo ho fatto un po' il dirigente seguendo le figlie che hanno seguito le mie orme, e abbiamo fatto qualcosa a Castel San Pietro fino ad arrivare alle finali per andare in A1, poi non c'erano risorse, quindi un po' Mariella, la mia piccolina, è andata in America a giocare e a studiare, di quell'esperienza c'è chiusa, io con quello ho finito, adesso lavoro e basta. Certo, ogni tanto ti perdo, però ho saputo che ci sei. Io sono tu mi perdo. Senti, ogni tanto ti perdo, ma ti recupero. Aiuto e recupero, come nella difesa. Vabbè, buono. In cui sono sempre anche stato tu. Molto carente nella difesa. Beh, insomma, però... no, ti ricordo come un buon giocatore. Grazie, anche tu, Marco. Un lungo che amava tirare da fuori. Sì, Marco, esattamente così, ma... Sulle orme di Charles. Grazie, il più bel complimento che ho ricevuto. Grazie, Marco. Oltretutto ti ringrazio per il tuo tempo e questa testimonianza, la tua sensibilità e l'attenzione. Faccio l'in bocca al lupo alla tua giovane campionessa, che momentaneamente sta recuperando da un infortunio, quindi auguro il meglio e una pronta ripresa per la carriera agonistica, e ti auguro ovviamente una buona giornata. Ormai ho il tuo numero, sappi che chiederò altri approfondimenti. Volentieri, fa sempre piacere parlare il basket. Grazie, ti abbraccio forte. Ciao, ciao Marco. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Un saluto al fortissimo Santucci, fummo avversari negli juniores, lui nel Fernet, è vero, con il mio compagno di scuola Gelsomini, oh Achille Gelsomini, Marco Santucci, mamma mia, qui veramente stiamo parlando di Jordan e Pippen, ed io a Castiglione con Tarozzi, Costa, Perini. No, però sto pensando Santucci, Gelsomini, wow, tanta roba. Achille poi andò a giocare nell'Onchi Fabriano, poi ha avuto lunga carriera nella Febal Napoli, che ha fatto sudare 7 camicie anche alla Virtus Bologna. A proposito di Jordan e Starks, a Napoli con Lee Johnson e Rudy Woods, due americani, mamma mia, ma vabbè dai, stiamo anche a parlare della NBA Cup, non perdiamo tempo. Pietro, hai avuto diretta testimonianza anche da un compagno di squadra di uno dei tuoi primi idoli, Charles Jordan. Vedi, con Radio Città Fujiko, che bella esperienza. Cosa non si impara con William Piana? Cosa non si impara, Capirsi, Lee Johnson era il Larry Nance del campionato italiano. Sì, sì. Thank you. terminata, è stata una bella passeggiata sui parquet di diverse epoche. Grazie Marco Santucci, grazie Jason Filippi, protagonisti di una pallacanestro che è stata, ma che continuerà comunque ad essere. Al Moved Groove come amplificatore di queste emozioni, e ne sono onoratissimo, insieme a Pietro Rossi. Grazie Pietro. Grazie Willy, grazie a tutti. Da remoto, presentissimo, costante, il nostro Dennis Johnson, Paolo Onofri. Servo vostro, vi do appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina del Breakfast Club con Silvia Albertazzi per la rubrica letteraria dei 103.1. Mi congedo a voi augurandovi una buona giornata e un buon ascolto su Radio Città Fujiko alle ore 7, domani Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti, con un grande abbraccio dal vostro William Piana. Ciao!